Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera e domani sera in due puntate cercheremo di fare il punto su alcune recenti attività dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che è impegnata su più fronti nel tentativo di riformare aspetti della regolamentazione sia delle reti energetiche che delle tariffe dell'energia elettrica, riforme che ci riguardano un po' tutti. Lo facciamo a partire dalla delibera 393 dello scorso 19 settembre. Siamo nell'ambito del cosiddetto smart metering, ovvero della misurazione in tempo reale dei consumi energetici. Oggi, grazie a circa 35 milioni di contatori intelligenti, i consumi elettrici di quasi tutte le famiglie e imprese italiane sono noti in tempo reale, ciò che comporta una serie di vantaggi sia per il sistema elettrico che per gli utenti, anche se su questi ultimi, come vedremo, c'è ancora da fare. Sta di fatto che in questo settore l'Italia è nettamente all'avanguardia nel mondo e l'autorità mira a mantenere, diciamo così, questo primato estendendolo ai consumi di gas in primis e quindi anche al consumo di acqua. Ne parliamo con Luigi Carbone, componente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Buonasera Carbone. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, cosa stabilisce questa delibera e qual è l'obiettivo? La delibera 393 parte da un'idea. L'idea che i servizi di misura di un servizio come quello del gas, appunto, possono essere fortemente potenziati dalle moderne tecnologie informatiche, le TLC. Perché? Perché con un singolo concentratore, con una singola smart card, si possono dare letture di più servizi e si possono anche dare altre informazioni al cliente per renderlo più edotto dei suoi consumi e cioè dargli soluzioni innovative perché lui consumi meglio. Ora, avendo noi un parco misuratori gas che, come lei ha ricordato, non è aggiornato come quello elettrico, che è stato cambiato abbastanza di recente, abbiamo avviato questi progetti pilota, e questi progetti pilota prevedono ovviamente delle gare che danno dei punteggi a chi dà, diciamo, a chi propone le sperimentazioni più interessanti. Qual è il punto nuovo di questa sperimentazione per la misurazione gas? Che si danno dei punteggi aggiuntivi quanto più il nuovo misuratore gas dà anche informazioni sugli altri servizi, sull'energia elettrica, sull'acqua, anche su ulteriori servizi in una logica di smart city, quindi per esempio il parcheggio del proprio comune. Più servizi daranno i nuovi misuratori, più sarà interessante per noi la sperimentazione. Ecco, questo è un aspetto molto importante perché significa, come dire, creare sinergie e fare anche risparmi dal punto di vista economico. Giusto, questo è uno dei temi, mi sembra forse quello più importante. Accanto a questo tema c'è quello del stimolare il più possibile il consumatore verso un consumo più attivo. Non a caso un punteggio ulteriore è previsto per le sperimentazioni che metteranno a disposizione del cliente, con i nuovi misuratori, soluzioni innovative per la fornitura di servizi informativi. Ecco. Quindi, se noi riusciamo a stimolare... Cioè, informativi all'utente, cioè l'utente deve sapere anche lui in tempo reale, per esempio, quanto sta consumando in modo da poter avere dei comportamenti virtuosi. E questo è il punto? Esattamente. Ecco, perché il punto un po' paradossale è che oggi, con i 35 famosi milioni di contatori intelligenti sulla rete elettrica, questo non c'è, questo fatto non c'è. E qui veniamo all'altro aspetto di cui volevo parlare questa sera, e cioè oggi questi contatori intelligenti che tipo di benefici hanno portato all'utente? Perché l'utente, secondo me, in parte non li ha avuti, in parte non comprende neanche quelli che ha avuto. Allora, certamente il primo grande cambiamento è stato quello dell'evitare le letture personali, cioè una persona che andava a leggere materialmente il vecchio contatore oppure si doveva ricorrere all'autolettura, tutto questo sistema costava e i costi di lettura erano, come dire, comunque ricadevano in bolletta. Certo. Un altro vantaggio è stata per esempio una forte riduzione del fenomeno delle letture stimate, anche qui. Le letture stimate, ecco, traduco, la cosiddetta anche sovraffatturazione, cioè di fatto le compagnie stimavano quanto uno consumava, ma stimavano sempre per eccesso, naturalmente, anche per incassare un po' in anticipo. Problema non del tutto scomparso questo oggi. oggi non è scomparso, ma non è più colpa dei misuratori. Questa è una cosa che, come dire, su cui non ci sono più alibi. Possiamo dire che è diminuito questo problema nel settore elettrico della sovrafatturazione, oppure no? È certamente diminuito, okay. E non solo, ma c'è una cosa in più che ci consente, laddove ci siano dei conguagli anomali, ci sono ancora dei casi abbastanza eccezionali per la verità, ma ci sono, sapendo che non è più colpa dei misuratori o dell'umido. Non ci sono più scuse, lei dice. Non ci sono più scuse, okay. Si va a cercare la vera causa. Ecco, quindi qualche vantaggio già c'è. Grazie Luigi Carbone, ci risentiamo domani.